Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quando avevo 6 anni, sui tappi dei succhi di frutta ci trovavi le bandierine di tutti i paesi del mondo. Tutti quei colori erano una tentazione troppo grande per un bambino come me, e io li collezionavo con passione. Avevo appena imparato a leggere, ma conoscevo già tutte le bandiere del mondo. Mi chiamo Marco, sono un 33enne trentino, anche se da ormai 10 giorni abito in Francia con Aurélie, la mia ragazza con la quale ho viaggiato. Manca un solo giorno all'evento che tutti qui dentro quantomeno aspettiamo, il live finale di Voi Siete Qui della stagione 2012-2013. Ricordo che l'appuntamento è dal vivo, appunto, essendo un live, è dal vivo alle 21 qui in Via Monterosa 91 dalla sede di Radio 24, ma è anche in live streaming, quindi potete vederlo in video. Non è che c'è tutta questa regia, diciamo, c'è una camera fissa, un po' tipo attentatori di Al Qaeda, che mi vedete lì con che parlo con un foglio in mano, ma fortunatamente non sarò da solo, ci saranno altre persone con me, ci saranno 10 persone che sono gli autori delle storie che racconteremo, che avete già conosciuto se siete assidui del programma, se no conoscerete se non li avete mai sentiti, e poi tutti gli altri ovviamente, Tiziano Bonini, Margherita Hina, che adesso non c'è, sostituita super degnamente da Valentina Magri, che è arrivata in un giorno un po' complicato per la redazione, ma si è subito inserita e ha twittato in questo momento carica come una mina, giusto? L'hai scritto? Andate sul Twitter di Radio 24, Voi Siete Qui, R20. Valentina, se non l'hai scritto, adesso lo stai scrivendo. Direi hashtag mina carica come una mina. Cioè, proprio carico come una hashtag mina. Sono le 16:08 minuti, buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Voi siete qui, si chiama il programma, invece. Ancora 2 giorni, perdonatemi, 3 giorni con oggi. Non so mai quando partire a contare. Cioè, se dico che mancano 2 giorni, conto giovedì e venerdì o conto mercoledì, giovedì e venerdì? Cioè, mancano 2 giorni con... Questa è andata. Quindi mancano 2 giorni alla parte di diretta di questo programma, che è in onda dal 3 di settembre o dal 2, non ricordo più. E poi per il mese di luglio invece ci sarà uno speciale di Voi Siete Qui, che dura tutto il mese e durerà 1 ora intera, dalle 16 alle 17, con 2 o 3 storie che riguardano più o meno un argomento, che riguardano un tema o un macro o un micro tema. 349 238 6666. L'ultima notizia, diciamo, di servizio è che è online l'ebook di Voi Siete Qui. Volete scaricarlo, lo potete fare gratuitamente dal sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. 101 storie per cercare di diventare 101 persone diverse, che è quello che in qualche modo cerchiamo di fare tutti i giorni. Oggi vi invito a cercare di diventare un po' Marco. Marco è il protagonista di questa storia e ha una vita, da come la racconta, che sembra magnifica, perché viaggia in un sacco di posti e soprattutto in un sacco di posti assurdi. Li definisce lui così, un sacco di posti assurdi, posti che lui conosce tramite le bandiere, ha una passione malsana per le bandiere di tutti i paesi al mondo e quindi li gira quasi a casaccio. 80024 0024 al telefono, in diretta oppure via sms al 349 238 6666. È arrivato il momento di raccontare qual è il posto più assurdo in cui siete stati, l'angolo di un paese, una regione particolare, nel Punjab, dall'altra parte del mondo, in un'isola di cui nessuno conosce il nome, oppure anche un angolo di una città molto particolare che avete visitato e che in qualche modo volete consigliare. È molto probabile che ci sia qualcuno che ha 3 soldi da parte e magari vuole investirli in un viaggio nei prossimi mesi. 349-238-6666 per gli sms oppure 80024-0024 per chiamarci in diretta. Qualsiasi sia stato il posto in cui siete stati, davvero, in fondo all'Argentina, dall'altra parte, dalla parte opposta di Mosca rispetto... Dalla parte opposta, della Russia rispetto a Mosca, che non so dov'è, però Mosca è un po' di qua, ecco, dall'altra parte, oppure un angolo dell'Alaska se siete stati in Alaska, oppure un pezzo del Canada che nessuno conosce, qualsiasi sia il luogo in cui siete stati, un luogo che ha qualcosa, non so, non chiedetemi perché o come, ma che ha qualcosa di assurdo. 80024 0024, in diretta al telefono più tardi. Adesso è arrivato il turno della storia di Marco. Quando avevo 6 anni, sui tappi dei succhi di frutta ci trovavi le bandierine di tutti i paesi del mondo. Tutti quei colori erano una tentazione troppo grande per un bambino come me, e io li collezionavo con passione. Avevo appena imparato a leggere, ma conoscevo già tutte le bandiere al mondo. Non perché fossi particolarmente intelligente, ma solo perché ci passavo ore a giocare coi tappi, studiarli e raggrupparli per colore o continente. Mi incuriosivano gli stati piccoli, quelli che nessuno conosceva, neanche degni di mezza fotografia sull'Atlante. Di solito erano anche quelli con le bandiere più originali, lo scudo su campo marrone dello Swaziland, ad esempio, il coraggioso giallo-arancio del Bhutan, o l'alba atomica di Kiribati, o ancora il berretto sulla bandiera del Lesotho. Li chiamavo gli stati assurdi, e la curiosità per gli stati assurdi mi è rimasta attraverso l'adolescenza, la maturità e quella strana fase in cui, invece di maturare oltre, ho cominciato a regredire verso lo stadio di infante. È una passione che nasce per caso, nasce perché mia mamma raccoglieva i tappi di succhi di frutta per me, e a me ricorda molto la mia infanzia. Ogni tanto c'è bisogno di tornare all'infanzia, e per me l'infanzia è anche questo. Qualche anno fa mi sono fissato con l'Uzbekistan, un po' per la bandiera bianco-blu-verde-rossa, un po' per i nasi degli uzbeki che avevo conosciuto ad un corso di tedesco, ma soprattutto per la geniale cacofonia turcomanna del nome di questo paese, che non manca mai di mettere alla prova la mia zeta trentina. Stavo con Aurélie da pochi mesi e dovevo comunicarle una decisione già presa da prima che ci mettessimo insieme. Senti, io programmavo di fare 3 settimane di ferie in Brasile con Nicola e Thomas. Lei mi guarda un po' delusa e mi dice: credevo volessimo andare in Uzbekistan insieme. Ecco, dovevo avere rimosso. Forse gliel'avevo detto per scherzo qualche giorno prima. Anzi, a pensarci bene, devo averglielo detto diverse volte, ma sempre ridendo. Voleva essere la nostra fuga romantica nel mondo della fantasia. E più avanti io avrei imparato. Aurélie concepisce l'immaginazione solo come preparazione di obiettivi concreti, non come un gioco o un meccanismo fino a se stesso. Io comunque ero rimasto interdetto, perché lei lo avrebbe fatto davvero. Ci sarebbe andata in Uzbekistan. Avrebbe davvero trasformato lo scherzo in realtà. All'improvviso ricordo di non avere mai amato quelli che ti assillano con progetti che non metteranno mai in pratica, quelli che dicono che fosse per loro partirebbero subito, poi però la ragazza e i genitori, che non sono più dei ragazzini, e il lavoro così, quando lo ritrovo, lascia perdere. Allora mi metto a cercare su internet e scopro che in Uzbekistan c'è Samarcanda, quella di Tamerlano o di Vecchioni. Mi appassiono guardando le fotografie delle città antiche di Bukhara e Kiva, o del deserto del Moinak, pieno di navi, arrugginite, perché poche decine di anni fa quello era il fondale del lago Aral. Allora, un po' uno dei più grandi del mondo. In effetti, il posto sembra molto più interessante di quanto avrei creduto. Così, le fotografie del 3 di giugno del 2010 ci ritraggono sul volo fra Mosca e Tashkent, mentre piantiamo le forchette di plastica nel manzo di gomma del pasto Airflot. E poi siamo in un vagone di terza classe e viaggiamo con un tennista di 12 anni che ci fa da interprete fra decine di autoctoni curiosi di sapere perché mai una che viene da Parigi voglia andare ad Urgench. Guardiamo le navi incagliate nel deserto da quelle che erano le sponde del lago Aral, nel mistico Karakalpakstan. Ammiriamo dipinti imboscati qui per salvarli dall'annientamento sovietico. Camminiamo fra i gelsi sui monti di Nurata e dormiamo in yurte di feltro fra le dune rosse. E questo è il primo di molti viaggi. Il mio primo viaggio è stato fatto da Transiberiana, da Mosca a Pechino attraverso la Mongolia, poi Uzbekistan, poi sono stato in Senegal. E poi questo viaggio, l'ultimo, quello più lungo, siamo stati in Malesia, in Indonesia, nel Brunei ovviamente. Un anno in Australia, abbiamo fatto 40.000 km su un furgone. Poi la Nuova Zelanda, Tonga e le Figi. I paesi più strani che ho visto sono il Gambia, l'Uzbekistan, il Brunei, Tonga e basta così. Qui imparo che non c'è niente di sbagliato nel voler visitare un posto solo perché è attratto dal nome o dalla bandiera, o dal fatto che sull'Atlante non ne parlino. Tanto qualcosa di particolare da vedere, sentire, provare o gustare lo si trova dappertutto. E così ora sono qui. Ho appena finito di ascoltare un podcast vecchio di 6 mesi che parla di un ragazzo passato da un incidente stradale alle Paralimpiadi, giusto per ricordarmi un po' come suona la mia lingua. Fra 5 minuti atterreremo all'aeroporto internazionale Fuamatu, nel regno di Tonga, e fra 2 settimane finalmente si torna a casa. Perché la cosa migliore di viaggiare è che è bello partire ed è altrettanto bello tornare. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Tempo fa, per motivi molto simili a quelli di Marco, ho fatto un viaggio in un posto in cui non sarei mai andato se non per caso. In Pakistan. Ecco, questa è una pagina di diario di quel viaggio là. Mi sveglio in una casa che non è la mia. Sono avvolto nel sacco a pelo. Ho la bocca impastata e sono in Pakistan. Ci sono 15 gradi, nell'aria c'è odore di fritto e di pecora. Ho fame, ma non sopporto più il sapore del riso speziato e voglio bere qualcosa che non sia solo tè al gelsomino. Entro in un supermercato che sembra un bar nel pieno di un trasloco. Voglio mangiare cose che conosco. Basta anche un pezzo di pane e del caffè latte. Il ragazzo alla cassa ha addosso una maglietta del Barcellona. Per un attimo vorrei fosse domenica pomeriggio, per essere allo stadio e guardarmi una partita. Il ragazzo con la maglia del Barcellona sorride nell'inglese puntuto che hanno qui. Pago l'equivalente di 20 centesimi per mezzo litro di latte, dei biscotti che sembrano dei tarallucci e un succo di arancia. Esco a cercarmi un posto dove fare colazione. Mi siedo a terra su un marciapiede di fronte a una strada non troppo trafficata, accanto a un gruppo di uomini in abito afghano. Peshawar è al confine con l'Afghanistan e qui si mischiano i tratti somatici, le abitudini e il cibo. Faccio colazione mentre alcune persone che mi passano davanti in motorino mi salutano. Intanto penso che ancora non mi sono abituato a vedere solo uomini per le strade, nei negozi, nelle piazze. Per oggi non ho programmi. Ho tempo fino a stasera, quando parte l'autobus che mi porta in Afghanistan per l'ennesima tappa del mio viaggio. Passeggio per il centro della città, o quello che penso sia il centro della città. Bancarelle di stoffe, di carne, di pollo, di spezie e di tè, già pronto e caldo da bere, a gambe incrociate. È mezzogiorno e inizia a fare caldo. Una goccia di sudore mi si stacca dall'ascella e la sento infilarsi nella manica del pile. Rimango in canottiera. A confronto degli uomini intorno a me, io sembro un senza tetto, mentre loro sono tutti elegantissimi, nei loro salwar kameez, l'abito tipico, quello con pantaloni e camicia lunga di cotone, bianchi o beige. Mi torna in mente la frase di un'amica sarta che diceva: solo le persone molto ricche e quelle molto povere sono eleganti, gli altri imitano. Passa un carretto trainato da un mulo, un anziano lo guida e di fianco a lui c'è una bambina, è la prima donna che vedo oggi. Ha un velo rosso in testa, si gira e per un attimo mi guarda. Ha la pelle scura, gli occhi verdi, di un verde innaturale, quasi spaventoso. Al viso serissimo, così serio che sembra impaurito, così impaurito che fa quasi paura. Io continuo a guardarla, lei distoglie lo sguardo. Ho la sensazione di averla già vista da qualche parte, ma non so dove. Mi è venuta fame. Nell'aria c'è odore di carne arrosto. I posti più assurdi, uso una parola che ha usato Marco, che vuol dire tutto, vuol dire nulla, però identifica un po', dei paesi strani, anche stavolta, la parola strani non ha senso se non perché parla di posti probabilmente meno conosciuti e meno frequentati dal turismo abituale. 349-238-6666, ma anche 800-24-0024. Carlo dice: colleziono siti UNESCO Patrimonio dell'Umanità e per vedere il lago più grande del Sud Pacifico sono stato a Rennell nell'arcipelago arcipelago delle isole Salomone. E ancora, in barca con amici nel poligono di tiro della marina militare thailandese. Autorizzati, quindi fortunatamente non ci hanno sparato. Io sono stata a Pontianak e ho visto il punto dove passa l'equatore, era il 1971. Io devo ringraziare però Marco perché è riuscito a infilare una serie di nomi che se uno li legge a casa magari ce la fa, ma se uno li legge in diretta davanti a un microfono trova il modo, anche se ti fai dei segni per dire Urgench, ma ancora Karakalpakstan. Pronto Marco? Ciao Matteo. Com'è che si dice Karakalpakstan? Io penso si dica Karakalpakstan. Karakalpakstan, vedi, quando, poi quando lo infili va dritta, Nurata, lo yurt, che cos'è lo yurt? La yurt è una, sono delle tende dove dormono nel deserto, come molto simile a quelle che hanno in Mongolia. Ah ok, no, è che la verità è che quando non conosci una parola la tratti come se fosse una roba strana, quindi la dici già male. Detta da te sembrava, certo, la yurta, detta così lo capisco che è una tenda. Se dico cosa sono le yurte, sembra che lo sto prendendo con le pinze. Marco, io devo farti una domanda che si sta facendo sostanzialmente il 50% degli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 ed è: che lavoro fai? Beh, io facevo il project manager in traduzione. Scusami, produzione. In traduzione. Cioè, cosa significa esattamente? Praticamente quello che invece di fare le traduzioni va a cercare qualcuno che le faccia per lui. Beh, sai che non capisco se è una battuta o è serio. Cioè, no, non è una battuta. Cerco traduttori di tutte le lingue del mondo. Ah? Se mi chiedono la traduzione in russo, cerco un traduttore russo. Se me ne chiedono una in tedesco, ne cerco uno tedesco. Ah, sei tipo un agente? No, perché l'agente ha dei traduttori che lavorano per lui. Tu invece semplicemente procacci traduttori. Esatto. Vabbè, non diciamolo. No, diciamolo. Il magnaccione di traduzione. Ah, ok, va bene, perfetto. Ma no, anche non diciamolo, ormai l'abbiamo detto. Poi in registrazione questa la tagliamo dopo, giusto Rudy? Ascolta, Marco, adesso però cosa fai? Perché mi è sembrato che dicessi prima facevo. Adesso sono passato dall'altra parte, sono un traduttore freelance. Ok, quindi questi viaggi hanno a che fare anche col tuo lavoro o semplicemente guadagni moltissimo e puoi permetterti di viaggiare o viaggi con poco? No, guarda, quella dei soldi me l'hanno chiesta in molti. In pratica, presente il prezzo di un appunto, per viaggiare un anno e mezzo ci vuole quello. E io la macchina non l'ho mai avuta e quindi i soldi me li sono spesi così. Questa non è male, che con un appunto, scusa, ma un appunto nuova però. Sì, nuova. Ok, quindi cosa, 13.000 euro, 15.000 euro, no di meno. Sì. 13.000 euro viaggi per un anno e mezzo. Sì, poi dipende anche da quello che fai nel viaggio. Comunque io non mi sono fatto mancare niente, però quando si viaggia ci sono dei posti dove basta uscire 500 metri dalla zona turistica e le cose costano un quarto. Adesso non vivi più in Italia, giusto? Sì, dove... a Tolosa. Vivi a Tolosa, con la tua fidanzata? Sì, esatto. Che è quella che è venuta in Uzbekistan? Sì, è un po' la responsabile. Cioè, o meglio, è quella che in realtà ti ha spronato ad andare in Uzbekistan? Diciamo che io ho le idee e lei ha il potere esecutivo. Da quanto stai a Tolosa? Da 10 giorni, 2 settimane, vai ormai. Ah, sei appena arrivato? Sì, sì. E com'è la sensazione? Perché lei si è messo un po' a trovare lavoro. Com'è la sensazione? Che posto è Tolosa? Come sta in Francia? Ma è una città molto bella, è un posto tranquillo, è una città che tra l'altro è caldo, perché io finora ho sempre abitato in paesi freddi. Ok, quindi tu di dove sei esattamente in Italia? Della Val di Noi, in Trentino. Ah giusto, parlavi di accento trentino. Ma quanto costa, per capire, non quanto spendete, quanto costa un affitto a Tolosa? Sono 640 euro divisi per due. Per una casa di quanto? Per una casa di 45 metri, no, 58 metri quadri. Tipo Bologna? No, dico una idea, città. Non neanche io ho idea, cerco di immaginarlo. Pisa? Non so perché ho questa idea che no, dice che costa molto di più a Pisa, Tiziano, o molto di meno. Ah, che beh, insomma, mi sembra un po' meno di Milano. L'ultima cosa, e poi ti lascio andare. A questo punto non ti chiedo se vieni al live, essendoti trasferito 10 giorni fa a Tolosa. Dimmi un motivo per cui dovrei andare in Uzbekistan, Marco. Ma perché è veramente un posto bellissimo, la gente è molto, molto disponibile. E adesso diciamo l'ultimo stereotipo. e sono veramente molto aperti, sono molto curiosi, sono molto orgogliosi di vedere che qualcuno si interessa del loro paese, che comunque è bellissimo. Ti credo, bello, lo immagino, no? Insomma, probabilmente una storia grandiosa. Non sono abituati. L'altra cosa è: non comprate punto e viaggiate per un anno e mezzo. Saranno contenti tutti, amministratore delegato della Fiat e tutti i vertici dell'azienda italiana. Grazie ancora, Marco, un abbraccio. Grazie a te. Ciao, buona giornata. India, isola degli elefanti. India, un paese dove è vero tutto il suo contrario, a proposito di stereotipi. E poi isola di Koh Phangan in Thailandia. Voi siete qui. È proprio perfetta la foto che ci ha mandato Marco. Di solito arrivano primi piani che, insomma, lasciano trapelare poco, se non l'espressione, i lineamenti del viso dell'autore della storia. Invece la sua foto è perfetta, andate a vederla sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Lui sta aprendo, credo, un mandarino, lo sta sbucciando, o comunque un frutto, ce l'ha in mano. Ha su dei bermuda e delle infradito, degli occhiali da sole, quindi in realtà non si vede molto bene il viso. Però si trova seduto sul gradino di uno di quei piccoli van, quei piccoli furgoncini che tra l'altro si vede avere la guida a destra, quindi è in qualche luogo, non voglio immaginare nemmeno dove. E, avendo il portone aperto, si vede l'interno di questo furgoncino ed è uno splendido furgoncino minuscolo, ma credo camperizzato. Uzbekistan. L'Uzbekistan, ufficialmente Repubblica dell'Uzbekistan, è uno stato dell'Asia centrale, già parte dell'Unione Sovietica. 447.400 km quadrati, 27.727.435 abitanti, capitale Tashkent. Confina a nord e ad ovest con il Kazakistan, a est con il Kirghizistan e il Tagikistan, a sud con l'Afghanistan e il Turkmenistan. È doppiamente senza sbocchi sul mare. La lingua ufficiale è l'uzbeko. Sentite una che lo fa per mestiere? È sentita Alessandra De Luca? Non ne ha sbagliata una. Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan. No, Fabio, va bene così. Voglio immaginare che non ci siano sporchi, che lei l'abbia fatta tutte in fila, l'abbia azzeccate tutte. Grazie ad Alessandra De Luca che ogni giorno ci ha fatto il dizionario di Voi Siete Qui, che era la spiegazione che sembrava banale, perché sembrava semplice, no? Dare il significato di una parola. In realtà non lo era. Spesso ci ha aiutato a capire che tutte le parole arrivano dal XIII secolo, giusto? Tutte. Una parola risalente al XIII secolo. Tetiaroa, l'atollo davanti a Tahiti, che è lo che Marlon Brando comprò dopo aver girato il Bounty. Antonio, 800240024, i posti più assurdi in cui siete stati. Michele da Verona, pronto Michele? Sì, pronto, ciao. Ciao. Il posto assurdo è un posto normalissimo, per un veronese è diventato assurdo. Perché? Nel senso che ieri sera siamo stati a vedere il concerto di Paul McCartney in Arena. Sì. E siamo rimasti in maniera assurda ad aspettare Paul McCartney 2 ore al surretto dell'arena, pensando che uscisse, quando eravamo consapevolissimi che era già andato, e forse era già sull'aereo, diciamo. Michele, allora fammi capire una cosa. Io sto parlando di posti assurdi che vanno dall'Uzbekistan al Tirgikistan, e tu mi dici che eravate dietro l'arena di Verona ad aspettare Paul McCartney, che era già andato via. Sì, tra l'altro, eravamo praticamente convinti che fosse lì, ma sapevamo che non c'era. Ma cosa vuol dire, Michele, scusami? Da fanatismo malato, insomma. Chi eravate? Tu? Io e il mio amico, quello che suona con me. Cosa suonate, Michele? Cosa io suonate? Canto e lui suona la tastiera, facciamo un po' di tutto. Insomma, come vi chiamate? The Mystery Duet. Come vi chiamate, scusami? The Mystery Duet, che sarebbe un misto tra il nostro nome, il mio nome e il suo, Michele Stefano Mystery Duet, in linea con i Beatles, diciamo. Quindi siete un po' il duo del mistero. Esatto. Ma cos'è? Qual è il mistero di quello che suonate? Bah, oddio, il mistero è come magari si riesce a fare certe canzoni delle volte, magari. Sento le quattro frecce di sottofondo, Michele, quindi ti lascio andare, ti ringrazio. Vieni al live da Verona domani alle 21. Niente, è già andato. Andiamo a Como da Davide. Pronto Davide? Ciao, non dirmi che eri dietro a Como, tipo dietro allo stadio di Como a aspettare un... No, io invece parlo del viaggio che ho fatto l'anno scorso. Dove sei stato? Da Como fino alla Norvegia in auto in inverno. Ah, in inverno, perché volevi fare le cose... Volevo andare a vedere l'aurora boreale, quindi era l'unica scelta, era andarci in inverno. E l'hai beccata? E l'ho beccata. Cioè, perché lei è sempre lì? È sempre lì, sempre anche in estate, solo che visto che c'è il sole di mezzanotte non si vede. ma in inverno, essendo che c'è molto più buio, si riesce a vedere quasi sempre. Che strada fai per andare da Como alla Norvegia? Svizzera? Sempre su, dice Rudy. Sempre dritto? sempre su. No, sono passato Svizzera, Germania, all'andata dalla Danimarca, traghetto, arrivato in Norvegia. Ho fatto tutta la costa ovest della Norvegia, su fino a quasi a Tromso, in direzione Capo Nord. Poi purtroppo l'auto non ce la faceva più perché le gomme non erano quelle adatte. Era un appunto, tipo. Era una piccolissima auto che non ce l'ha proprio fatta, poveretta. E quindi l'avete lasciata là, nel cimitero dell'automobile? Sono tornati dalla Svezia, che le strade erano un pochino più pulite. Perché quanto ci avete messo ad arrivare in Norvegia? Ma pochissimo, in realtà arrivare in 4 giorni siamo arrivati. Ma hai una concessione del tempo che è abbastanza relativa, insomma. Avete dormito in automobile o in giro? Ah, ce l'abbiamo organizzati per dormire in automobile, ma ce l'abbiamo fatta a dormire sempre in qualche ostello. Va bene, Davide. È bellissimo perché non c'era niente e nessuno per centinaia e centinaia di chilometri. Lo immagino, neve. Davide, alla tua telefonata mancava solo un tac e poi era a posto. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Il posto più strano è stato un centro commerciale di Billings, nel Montana, dove tra cowboy e indiani in abiti tipici venivo visto come un allievo. 800240024, provincia di Alessandria. Marco? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai, Marco? Bene, grazie. Bene, dove sei? In questo momento sono in autostrada tra Tortona e Genova. Cosa fai nella vita? Io lo faccio a una società che fa consulenza. Non ti entusiasma per niente, però, mi sembra... No, bellissimo. Ah, no, ok, sei partito a raccontarla, ha fatto la voce lentamente. No, è che adesso pensavo di parlare di cose di... No, però infatti ho subito divagato. Mi interessa molto anche il mio lavoro. Bene, dimmi invece qual è il posto più assurdo in cui sei stato. Ma più che assurdo, bello, bellissimo. Allora, io in Bolivia, alla Paz, ero per lavoro nel 2000 circa, era la seconda volta che ci andavo. E, dopo una settimana di lavoro ci siamo svestiti e l'ultimo giorno, il giorno dopo partivamo per tornare in Italia, abbiamo deciso di fare un viaggio dalla Paz fino al lago Titicaca. Allora, a parte che la Paz è una città tra le più belle del mondo, perché secondo me perché... quando arrivi dall'aeroporto tu scendi in un canyon adagiata. Poi per ritornare, per andare al lago, si ripassa dall'aeroporto e l'alto, 4.000 metri d'altezza, e parti con la macchina. Fai circa 100 km, forse meno. Allora tu devi immaginarti il cielo tersissimo, sì. Come prima non potrebbe. Sembrano le diapositive, Marco, da come le racconti. Nessuna vegetazione, strada con nessuno, che incontri praticamente nessuno. Sulla destra hai le Ande. Cioè, che salgono fino a quasi 7.000 metri, sì. Senza soluzione di continuità, senza neve, senza niente. Marco, guarda, starei ascoltarti tutto il giorno, ma devo chiudere. Però mi hai dato una fotografia quantomeno parziale, ma quantomeno completa. Marco, ti aspetto giovedì al live, ovviamente, da Alessandria. Va bene, il lago Titicaca ha un colore stupendo. Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Ciao. Ultima telefonata, andiamo da Ilario a Bergamo. Pronto, Ilario? Pronto. Ciao. Matteo, ciao, come stai? Bene. Dove sei stato? Nel posto più assurdo, Ilario? Dunque, il posto più assurdo che sono stato io sono le isole Mentawai. Dove si trovano? Mai sentite? No, mai. Dunque, Indonesia, hai presente Sumatra? Sì. Ecco, da Padang, davanti giri a destra. 150 chilometri, sì. Di mare, di oceano, diciamo, ci sono queste quattro isole dove... esistono ancora i cannibali. Ma scusami, quando ci sei andato, Ilario? Quando ci sei andato? Dunque, io parlo, ci sono stato nel 78. Ma e poi devo salutarti, perché? Come sei arrivato alle isole? Vabbè, ero andato giù con una compagnia di missionari, così, per la costruzione di alcune scuole giù in Indonesia. E abbiamo voluto fare anche questo viaggetto fuori... fuori programma, diciamo, insomma. Sì, fuori programma, oltretutto senza il permesso delle autorità indonesiane, e abbiamo rischiato perché siamo andati per 3 giorni in queste isole dove abbiamo visto proprio la civiltà primitiva, non c'erano strade, non esisteva nulla. Lo immagino, una gita fuori porta. Ilario, ti aspetto domani sera live alle 21. magari. C'è bella risposta questa. Ciao, ci grazie. Col pensiero. Col cuore. Però, guardalo da internet. Ciao, grazie ancora. Arrivederci. Ciao. Chiudo con questo messaggio. Il posto più assurdo che ho visto è stato Seregno. Grazie a Valentina Magri, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Cantadori. La storia di oggi era di Marco e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Voi siete qui.